Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Dieci minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero. Allora, innanzitutto i numeri, lo facciamo come sempre. Allora, la possibilità di mandare i vostri messaggi 349-238-6666. Poi il numero verde, perché alle 11.30 anche oggi giocheremo con il mistero in 24 minuti. Per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Dovete risolvere il mistero ascoltando gli indizi che vi darò. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. E la risposta può essere un personaggio, qualcosa di conosciuto o una notizia della settimana. Il numero verde è questo, potete usarlo fin da subito, 800 24 00 24. E poi vi ricordo anche la nostra pagina su Facebook, dedicata proprio al riposo del guerriero, per fare i vostri commenti. Ormai molti di voi utilizzano proprio questo sistema ed è sicuramente efficace. Ma la cosa con la quale volevo iniziare oggi era la pagina di Google. Google è il più famoso motore di ricerca che ci sia su internet, ovviamente, e normalmente la scritta Google è la solita, ma ogni tanto questa scritta viene cambiata, viene modificata, graficamente modificata, sempre quando c'è un evento oppure Google vuole ricordare qualcosa. E mi ha meravigliato il fatto, sarà una meraviglia un po' stupida probabilmente, però mi ha meravigliato il fatto di aver visto oggi la scritta Google fatta come una targhetta con tanto di fiore per ricordare la festa della mamma. E così ho detto, se Google ha deciso di dedicare la sua pagina principale del motore di ricerca alla festa della mamma, vuol dire che è una festa sicuramente internazionale. E così è, non si festeggia nella stessa data in tutto il mondo, però moltissimi stati la festeggiano proprio oggi, altri l'hanno già fatto o lo faranno nelle prossime settimane. Comunque sia, auguri a tutte le mamme, ecco, ci voleva questo, nel senso che insomma la mamma veramente è uguale in tutto il mondo e in tutte le religioni, in tutte le lingue, dappertutto, insomma, probabilmente anche in mondi che non conosciamo c'è, bisogna festeggiarla, e quindi lo faccio anch'io e insomma lo faccio anche a nome di tutti gli ascoltatori. Magari qualcuno si sta dimenticando, si era dimenticato ed è ancora in tempo per mandare qualche messaggio o fare una telefonata. Oggi parleremo però non di mamme, ma parleremo di enigmistica, perché l'enigmistica fa parte della nostra vita, magari anche quotidiana per qualcuno. Spesso ci ha interessati, ci ha affascinati, ci ha coinvolti, ci ha fatto discutere, pensare. Oggi parliamo proprio di come l'enigmistica possa far parte della nostra vita e aiutarci ovviamente anche a conoscere meglio la nostra lingua. E tra poco quindi entreremo nel dettaglio, andremo a scoprire quali sono i giochi enigmistici che possono coinvolgerci e cercheremo anche di capire come in effetti possa aiutarci. E in particolare, per iniziare, vorrei farvi ascoltare questo brano di Lucio Battisti, scritto con Panella, quando lui ormai aveva lasciato Mogol. Panella scrive dei testi molto curiosi e fate molto attenzione a molta attenzione a questa, eccola qua. Gli equivoci amici di questa festa curiosa cantata da Lucio Battisti. L'album era Don Giovanni, e una delle frasi che mi fanno più ridere, devo dire, è quando racconta i mestieri delle varie persone incontrate a questo party. A un certo punto dice che uno fa calzoni dai risvolti umani. Ecco, quindi questo è davvero un bel gioco di parole, di questo parliamo, o meglio di enigmistica in generale, tra poco dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Direi di cominciare proprio dall'ABC, dobbiamo fare così. Professor Giuseppe Aldo Rossi, buona domenica. A lei. Eccoci qua. Allora, lei ha pubblicato diversi volumi, uno di questi si intitola Enigmistica, il gioco degli enigmi dagli albori ai giorni nostri. Esatto. E quindi dobbiamo cominciare dagli albori, cominciamo dall'inizio proprio. No, da dove? Come no? di chiarire un paio di equivoci. Ecco, lo facciamo subito, che so già dove vuole arrivare. Lei vuole arrivare alle parole crociate, io lo so. Ecco, e infatti lei sbaglia dicendo crociate. Niente, ecco, incrociate bisogna perché dire, non vero? Non portano la croce e non sono andato no, a liberare. No, è vero, bisogna dire contro. Incrociate. Incrociate. Poi con la Dragotto parleremo anche di questo. Allora, andiamo avanti. Dunque, dicevo questo, se lei interroga una decina di italiani, 20, quanti sì. vuole, le risponderanno che l'enigmistica sono le parole incrociate. Vabbè, bisogna anche, però non so se bisogna dare la colpa o merito, comunque sia, il fatto che la settimana enigmistica, che è stata una rivista, penso tuttora, popolarissima, che, dove si parla proprio di enigmistica, nella prima pagina ci sono proprio le parole incrociate, per cui... No, giusto, crociate. Mi dica scusi? Loro dicono crociate purtroppo, sì. Ah, ecco, sì, li chiamano così, lo so, certo. Ma non è questo tanto che io volevo sottolineare. Sì. Io volevo sottolineare il fatto che non si tratta di enigmistica, si tratta di ludolinguistica, cioè di parole, di giochi di parole. L'enigmistica è tutta un'altra cosa. Cioè, se lei in un cruciverba trova la definizione, non so, il fiume che passa per Roma, sa benissimo di dover mettere nelle sei caselle le lettere di Tevere, no? Certo, però se io scrivo... Ecco, però, scusi, se nella mia definizione, per esempio, tre lettere, cono senza testa, no, oppure cono senza fondo, per esempio. Beh, è un gioco di parole. Ecco, in questo caso ci sta però, no? Sono giochi di parole, sono ludolinguistica, non sono enigmistica. Cioè, enigmistica ecco. È tutta un'altra certo. cosa. Loro, quando lei, non so, prende la parola adulterio sì. e scopre che ha scoperto qualche cosa in adulterio, no, glielo dico io, e comprende tutte e cinque le vocali della nostra lingua. Ecco, io pensavo a aiuole per la verità. No, aiuole, esatto, benissimo. Un'altra, ecco, e sì. guardi che non è la sola, ce ne sono più di 5.000 nella nostra lingua, vero? Ma quello è un divertimento limitato, limitatissimo, come certo. scoprire che Ocarina si anagramma in arancio, oppure che Frosinone ha le stesse lettere di sonnifero, oppure che particolareggiatissimamente la parola più lunga dell'italiano, ma ci fermiamo qua. Però quella quindi è un'altra cosa. È un'altra cosa. E si chiama ludolinguistica. L'enigmistica invece, come dice la parola enigma, enigma, è un mistero, una cosa da scoprire, qualche cosa di nascosto. I giochi enigmistici sono fatti in questa maniera, che fingono di dire una cosa e ne provocano un'altra, che è la soluzione. Vuole qualche esempio semplicissimo? Come no? Le faccio due indovinelli. I indovinelli sono enigmi molto facili, vero? L'indovinello, il primo è si intitolava Corriere della Sera, potrebbe intitolarlo anche Sole 24 Ore. È un noto quotidiano di gran formato. Ok. Esatto. Sì. È un noto quotidiano di gran Chiaro, formato. Però gran qui... formato perché c'ha i fogli larghi, non è un tabloid. Certo, no? certo. Benissimo. Certo. In realtà significa tutt'altro. Che cosa significa? L'ho scoperto? No, devo pensare, però mi faccia pensare adesso, professore, perché arrivarci così, è vediamo. È il pane, perché il pane è un noto quotidiano, darci oggi il nostro pane certo, quotidiano, certo. di gran formato di grano, formato. Ecco, qui in questo caso la parola gran andava interpretata in un altro modo, ovviamente. Senso, certo. Lei come vede, qua si tratta di scoprire qualche cosa di nascosto, sì. sotto il testo, diciamo così, è vero? Come no? Guardi, come può, un altro, può tanto, farmene tanto anche per tutto il giorno, perché io mi diverto, però non possiamo, però va benissimo, io voglio sentire. Ne faccio due soli, perché no, dovrei, ma anche di più. Dovrei proporre alcuni difficilissimi, anche lunghi, in ogni modo, ma le dico questo. La nonna lavora ad ago, di apostrofo ago, sì. fino a mezzanotte sì. per aggiustare le mutande rotte. Sì, questo era molto famoso, fra l'altro. Molto, lo conosce? Sì, non mi ricordo la soluzione, devo pensare. Però ce la dia. Lavora ad ago fino a mezzanotte per aggiustare le mutande rotte. È la bussola. Perché? La bussola all'ago certo. che tende a mezzanotte, cioè a nord. Nord e mezzanotte sì. come sud e mezzogiorno sì. no? per aggiustare le rotte delle navi, le rotte mutande, gerundivo latino, che vanno mutate, cioè la bussola si tocca sempre il cammino della certo, nave, vero? Certo. per tenerla nella direzione giusta certo. È bellissimo quel mutande rotte. rotte, le rotte da mutarsi. Ma normalmente sono sempre tutti molto belli gli indovinelli, perché ecco, ci aiutano davvero a ragionare anche sulla ecco, nostra esatto, lingua, ovviamente, soprattutto esatto, sulla nostra lingua. Quindi vede la differenza enorme tra linguistica e enigmistica. Allora, tutte quelle riviste popolari oppure le rubriche giornalistiche, televisive, che si fingono enigmistiche, non sono enigmistiche, sono ludolinguistiche, perché giocano soltanto sulle parole. Certo, però insomma, mi concede al fatto che ormai, ecco, l'errore sarebbe nel mischiare le due cose, però ci va anche bene farlo, no? Per no, non complicare no, troppo, no, no, non dobbiamo farlo. Non ecco, farlo, secondo me essere sempre esatti, precisi, corretti. Esiste la linguistica, certo, è buffo non pensare che una rivista possa uscire col titolo di settimana, per esempio, ludolinguistica. Beh, non sarebbe neanche male, voglio dire. Non sarebbe male, per definire. Io non capisco per quale ragione invadere il territorio dell'uno e dell'altro, ognuno ha il suo territorio, ed è bellissimo, perché della linguistica in fin di conti se ne serviva anche Dante, quando lui scriveva credio che credette che credesse, si divertiva, è chiaro? Come quando no, parlava di Enrico VII e lo nascondeva sotto il velame delle versi strane, faceva della ludolinguistica. Certo. È giusto? E non è stato il solo, perché poi... Guardi, io ho scritto 7-8 libri al riguardo e c'è un'enciclopedia enorme, ho la biblioteca più vasta del mondo di enigmistica, perciò è da divertirsi e da passarci una vita, come in fondo ci ho passato io, intendiamoci, come hobby. Certo, però un hobby, insomma, al pari del lavoro. È stato anche un po' il suo mestiere. Ecco, professore... Tra i tanti giochi enigmistici, e ce ne sono sì, molti ovviamente, ce n'è uno che le piace in modo particolare per qualche ragione? Insomma, più degli altri ovviamente. Direi, beh, forse il divertente è l'anagramma, perché l'anagramma, come le dicevo prima, per esempio, fa scoprire questa novità che il frosinone è uguale a sonnifero, oppure che il nome è un nome di proprio come Arnoldo, è come dire Orlando con le stesse lettere. Ecco, qualcuno dice addirittura che nell'anagramma del proprio nome e cognome si nasconde sì, anche... Appunto, si è parlato a lungo del nomen omen. Esatto, cioè sì, che nel nome c'è il destino. E la personalità, ma... oppure sì, oppure ma il destino. Ma questo non può essere vero, perché prima di tutto cambia di lingua in lingua, quindi non è universale, quindi non è giusta la cosa. Certo. Ma comunque qualcuno ci crede, vero? Che ne proprio... e infatti molto spesso la gente anagramma il proprio nome e cognome, tira fuori una frase che magari vuol dire molto poco. E potremmo partire dal contrario, no? Cioè fare il contrario, se noi volessimo la vita in un certo modo, partiamo dall'aggettivo e poi ci inventiamo il nome anagrammando l'aggettivo, così siamo sicuri, sì, no? Ecco. Però dovrebbero farlo non noi genitori per i figli, per esempio parlavo del nome, vero? Del sì, nome proprio, ma lo dovrebbero fare i figli stessi quando sono arrivati alla maggiore età. Una scelta, insomma, deve diventare, assolutamente. Guardi che la enigmistica è vasta, è vastissima, ha tante cose, insomma, si interessa di tutto, di magia, di religione, di storia, di letteratura, eccetera, ed è un campo purtroppo poco arato dalla gente, la gente non la conosce, la gente si ferma, ed è anche più facile, si ferma al giochetto di parole. Ecco, professore, perché secondo lei, nel senso che nel tempo, questa è una domanda che poi farò anche ad altri ospiti, nel sì, tempo la curiosità, l'interesse per enigmistica è cambiato, nel senso che è diminuito, è aumentato? Adesso purtroppo è diminuito, perché naturalmente i giovani sono richiamati da altri interessi. Oggi c'è la televisione, oggi c'è l'internet, eccetera, eccetera, tutte queste belle cose, e un tempo non c'erano, un tempo la famiglia si riuniva la sera presso il caminetto, magari con gli amici, eccetera, e risolvevano le riviste specializzate, ed era già un divertimento quello. Oggigiorno è un divertimento per alcuni soltanto, quindi naturalmente è purtroppo in diminuzione. Ecco, possiamo fare qualcosa? Io direi di fare, io prima di tutto direi di far conoscere questa differenza che io ho sottolineato, veramente anche attraverso i vostri giornali, eccetera, farle sapere e tenere delle rubriche, anche sul vostro giornale, per esempio, tenere una rubrica enigmistica. Un tempo lo si faceva, ogni giornale ce l'aveva. Certo, e beh, io ho cominciato facendo, diciamo, una puntata del mio programma, questo, ecco, questo è il mio contributo. Io amo molto l'enigmistica e anche la ludolinguistica a questo punto. Ah, meno male. Da oggi in poi dividerò per sempre le due cose. Io se posso essere di aiuto sono qua. In ogni modo le ricordo che c'è anche una terza maniera di divertirsi con le parole, con la crittografia. Con la crittografia, per cui vabbè, nascondendo lettere attraverso altre lettere. Altre lettere, sì, è molto più complessa, ne parleremo casomai un'altra volta. Come no, quando parleremo di spie sicuramente la crittografia ci fa al caso dell'argomento. Io professore la ringrazio molto. Buon lavoro. E le volevo chiudere solo con una cosa, ma una laurea non le bastava, proprio tre no, doveva... No, hanno dovuto prendere tre. Vabbè, ha fatto benissimo, ecco. Poi mi sono fermato perché avevo altre cose da fare. Guardi, c'è sempre tempo, grazie professore. Sono Giuseppe Aldo Rossi. Buona domenica, grazie. Vi ricordo il libro, se siete curiosi. Enigmistica, il gioco degli enigmi, dagli albori ai giorni nostri. Happy. Continueremo a parlare di enigmistica con un altro enigmista molto popolare o ludolinguista. A questo punto non so più che cosa dire, però è entrambe le cose, sicuramente. Tra pochissimo. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di enigmistica oggi e quindi voglio farvi una domanda, nel senso che poi potrete rispondere al 349-238-6666. Non si vince niente, però è semplicemente la curiosità di dare una risposta, perché poi parleremo anche di questa cosa, però intanto voglio anticiparvela un attimo. Allora, io vi do una definizione di una parola, devo dire, non proprio conosciuta. E dovreste però riuscire a rispondere senza magari guardare in rete, osservare internet, anche perché non è tanto facile neppure trovare la definizione in rete. E comunque sia, la risposta stavo dando, non posso darla, devo dire, la parola è questa: colombiere. Io vorrei sapere che cos'è un colombiere. Ok, io avrei delle possibilità da offrirvi, ma non lo faccio subito, per adesso vi faccio rispondere. Quindi, se avete in mente di cosa possa essere un colombiere, mandate un messaggio al 349-238-6666. So che vengono in mente le colombe, tante, può anche essere giusto, non posso dire niente, non vi do nessun aiuto. Per adesso vediamo se qualcuno di voi riesce a dare la risposta giusta. 349-238-6666, che cos'è un colombiere? Non lo chiederò al mio prossimo ospite, che è Stefano Bartezzaghi. Buona domenica, Stefano. Buona domenica a voi. Allora, io volevo cominciare dal tuo cognome, scusami, però tu sei uno dei figli di Piero Bartezzaghi, che credo sia il più famoso enigmista italiano, anche perché è diventato un modo di dire. Tu lo sai fare, lo sai risolvere il Bartezzaghi, ci si chiede questo, no? Normalmente, quando si parla della settimana enigmistica. Cosa significa portarsi dietro un cognome così importante? Beh, sì, insomma, diciamo che è un'importanza di ordine medio, nel senso che ci sono delle persone onerate da cognomi ben più pesanti. Il Bartezzaghi è un po' una curiosità, ecco, una strizzata d'occhio, perché poi essendo un cognome così riconoscibile, certo. Io penso sempre, se appunto mio padre ci fosse, e io di conseguenza ci fossimo chiamati appunto Bianchi, Rossi, Fontana, difficilmente, no? Uno incontra il signor Stefano Rossi e dice: figlio di Paolo Rossi, il Pablito Nazionale, no? O di qualche altro Rossi famoso. Certo, Bartezzaghi non ne esci. Sembra una parola da cruciverba, no? È vero, ma voi figli... Viene come si scrivono, quante Z, e allora questo è un po' una strizzata d'occhio tra intenditori. Ma voi figli riuscivate a risolvere i cruciverba di vostro padre o mica tanto? Erano difficili anche per voi? Io non ho avuto pace fin quando non ne ho risolto uno. Come tutti. Io ho due fratelli, uno dei quali maggiore di me di 3 anni, ovviamente lui ci è arrivato prima, però gli scatta l'emulazione rovinosa per i secondogeniti, e quindi sì, era un po' nell'ordine del tempo, prima o poi bisognava farlo, no? È una prova... di passaggio, come quelle tribù. Sì, come, come giocare a calcio, hai capito? Buttarsi, ecco. Sì, bisogna buttarsi da un albero di 100 metri, attaccati a una liana, quelle prove lì, insomma, passare una notte nella foresta, ecco, quelle cose lì. Senti Stefano, io dico sempre che si è famosi soltanto quando si diventa una definizione di un cruciverba, sei d'accordo? È un criterio abbastanza plausibile poi adesso, perché io mi ricordo quando ho visitato la redazione del dizionario Zingarelli, l'ho trovata singolarmente simile a quella della Sedia Enigmistica, perché appunto anche la Sedia Enigmistica, almeno facevano, adesso è tanto che non ci vado, però facevano le stesse cose che si fa per decidere se una parola è degna di entrare in un vocabolario. Esatto, sì, certo. Ritagli, cose, insomma, proprio per riuscire a definire la popolarità di una persona e quindi anche del suo cognome. Infatti il mio sogno quello, ecco, non riuscirò, vuol dire sono arrivato a quel punto, è un paletto che si mette ovviamente, forse non ci riuscirò mai, ma fa niente, non è detto. Senti, invece io poi volevo arrivare a te, la tua attività, ovviamente tu ti occupi proprio di enigmistica e non necessariamente di cruciverbi, perché in realtà tu ti occupi anche di enigmistica in generale, per cui ti inventi anche dei giochi, hai inventato anche dei giochi. Sì, io diciamo appunto, mentre questo fratello maggiore proprio lavora alla Sedia Enigmistica ed è un autore di enigmistica nel senso più, diciamo, più proprio. Parli di Alessandro? Alessandro, sì, sì. Okay. Io invece sono un po' andato per le terre a studiare un po' il meccanismo di questi giochi e anche la storia, infatti, e poi sono anche un autore perché scrivo per Repubblica e appunto in agosto e poi su internet, insomma, negli ambiti più legati al tempo libero faccio cruciverba, cose così, però insomma in un modo meno industriale, ecco, un po' più così, anche un po' più divertito di quanto non capiti nella vera industria dei cruciverba. Ecco, hai pubblicato anche tantissimo. Senti, dal 2010 tu insegni semiotica dell'enigma presso lo Yulm di Milano e a questo punto ti chiedo, cioè posso intuire di cosa si tratti, però vorrei che lo spiegassi tu. Beh, ma appunto lì diciamo che non si può andare molto sull'intuizione perché si tratta di enigmi ed è quello che ci che serve, no, ma insomma adesso molto spesso le università hanno nel sottobosco degli insegnamenti complementari, hanno delle cose curiose che le caratterizzano. Ecco, lo Yulm è una università molto volta al mondo della comunicazione, sì. E io ho pensato che appunto se la semiotica nel momento in cui appunto c'era si trattava di progettare un corso possibile, la semiotica è la scienza, diciamo, cioè la disciplina che si occupa del modo in cui le parole, cioè i linguaggi producono del senso, della significazione. Ecco, l'enigma è il modo in cui i linguaggi la nascondono, ecco, la producono nascondendo, insomma, quindi tutti i modi per non dire qualcosa, ma non dire proprio quella cosa lì, ecco, perché molto spesso anche nella fuori dai cruciverba, dai rebus, dagli anagrammi, la comunicazione vive di allusioni, sì. Per esempio nella letteratura, insomma, sono cose secondo me molto interessanti da studiare proprio per studiare le condizioni in cui noi ci intendiamo comunemente. Ecco, senti, pensi che la politica debba trarne beneficio da questo tipo di studio, per esempio? Beh, insomma, io spererei che gli studenti che vengono al corso abbiano qualche strumento in più per difendersi casomai da questo, quindi capire quali sono i meccanismi. Perché quella veramente deteriore, però è proprio lì, ecco, è proprio la politica che almeno in Italia insegna molto sul fatto che spesso la parola viene usata per non dire, certo. Senti, c'è stata un'evoluzione o un'involuzione secondo te dell'interesse verso l'enigmistica? Allora, questa propria evoluzione, diciamo, si presuppone una specie di orientamento, no? Sì. Cioè una cosa è meglio e l'altra cosa è peggio. Io direi che comunque c'è stata una grossissima evoluzione, perché mentre una volta quei giochi si facevano soltanto nei luoghi deputati, e il luogo deputato poi era uno, adesso sono cioè veramente sono scappati dalla gabbia, no? Io lo dico perché un pochettino mi sento responsabile, nel senso che io ho incominciato a parlare di giochi con le parole nel 1987 nel supplemento culturale della Stampa, Tutto Libri, e 4-5 anni dopo mi hanno incominciato a chiedere degli anagrammi da pubblicare nella parte politica, insomma, quindi ho risalito il giornale fino a dei luoghi che fino a quel momento sembrava invece proprio il santuario, no, della comunicazione. Certo. Più paludata. E però da quelle volte in cui io con Ezio Mauro, che era allora mio direttore alla Stampa e adesso lo è a Repubblica, ci siamo un po' inventati delle formule così un po' scherzose, come delle specie di vignette, no? Dei forattini però linguistici. Sì. Adesso invece abbiamo un Presidente del Consiglio che si vanta pubblicamente di un suo anagramma, quindi diciamo che proprio siamo arrivati ai massimi livelli istituzionali, che vuol dire che appunto, come già sulle orme della satira, anche l'enigmistica, anche l'anagramma, l'uso scherzoso del linguaggio è uscito appunto dalla gabbia di uno specialismo ed è diventato parte del linguaggio. Certo, è poi così informale, no? Adesso con la storia di risolvere anche di avere degli enigmi da risolvere sui telefonini, per esempio, o direttamente su internet, è alla portata di tutti, è sicuramente un ottimo sistema per mettere alla prova le proprie conoscenze, la propria cultura, anche per imparare e a migliorarsi, e a migliorare anche l'italiano sicuramente. Stefano, vuoi lasciarci con un enigma da risolvere? No, mai, ecco, è meglio. No, anche perché dovrei fare l'enigma senza poter dare la soluzione, e questo è contro la deontologia, perché si entra nel magico. Ecco, è vero, quindi va bene così. Intanto li leggiamo sicuramente non soltanto sui quotidiani, ma sui tuoi libri e anche in rete. Grazie ancora Stefano Bartezzaghi, buona domenica. Grazie a te, ciao. Certo che adesso sarebbe potuto andare avanti un sacco con Bartezzaghi e farsi anche da lui fare qualche esempio. Adesso non volevo, gliel'ho chiesto, ma non, niente, non ha ceduto. Anche la soluzione avremmo potuto darla più tardi, comunque, o la prossima settimana. A proposito di soluzioni, la parola colombiere che cos'è? Allora, devo dire, qualcuno ha dato anche la risposta giusta, però ho qualche dubbio, nel senso che siccome non si vince niente, il bello del gioco sarebbe stato quello di non vedere le soluzioni, allora almeno su internet, non andare insomma sul dizionario o guardarla, ma così istintivamente cosa avreste risposto? Comunque qualcuno ha dato la risposta giusta, adesso vi do la soluzione. Però devo dire che la risposta che più mi ha divertito, e devo dire davvero complimenti a chi l'ha scritta, non è firmata purtroppo, è questa: investigatore. Oh, un colombiere è un investigatore, credo, dal tenente Colombo, no? Per cui geniale, bravo, perché il gioco è proprio questo. Allora, qualcuno ha scritto l'addestratore di colombe, invece il colombiere nei velieri è un termine marinaresco, in effetti è la parte superiore dell'albero maestro, ecco, si chiama colombiere. Ne ha nessuno però venuto in mente di dire che il colombiere poteva essere, per esempio, lo stampo per la cottura delle colombe pasquali. Ci sta, no? Colombiere è lo stampo, invece non è, è sbagliato, però è un'ipotesi. Allora, scusate, apro una parentesi, l'anagramma di Silvio Berlusconi, quello che aveva fatto discutere, era unico boss virile. Questo è l'anagramma di Silvio Berlusconi, lui aveva scherzato proprio su questo anagramma del suo nome. E andiamo avanti, la parola, invece la prossima parola che voglio proporvi, e vediamo se avete una soluzione per questa parola, è abballinare. Cosa significa il verbo abballinare? Attenzione, io non ho mai sentito, però esiste, e come, non si usa molto per la verità, però abballinare. La vostra risposta al 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Sono parole parliamo di enigmistica nel riposo del guerriero. Sorrido perché arrivano i vostri messaggi. Lorenzo scrive la risposta al verbo abballinare, secondo Lorenzo è di sparare ai colombi, tanto per stare in tema. Quello sarebbe impallinare, ma è un'altra cosa ovviamente, ma era una battuta. E allora, abballinare, chissà cosa significa, lo chiediamo a Francesca Dragotto. No, non glielo chiedo, così non diamo la soluzione. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto diciamo subito che nel caso voi a un certo punto doveste sentire dei respiri affannosi da parte di Francesca Dragotto, non mandatemi poi messaggi chiedendomi cosa tu stessi facendo in quel momento, ma perché Francesca sta per diventare mamma e le manca pochissimo, quindi posso anche farti, insomma, una giornata importante anche per te, quella di oggi. Grazie per gli auguri. Allora, Francesca, visto che tu sei ricercatrice o ricercatore, come abbiamo già detto più volte, nel settore glottologia e linguistica all'Università di Roma Tor Vergata, e la domanda è: da dove partiamo parlando di enigmistica? Dal fatto che abballinare è un verbo, sei stato cattivello scegliendo abballinare, perché è un verbo di uso bassissimo, è un toscanismo, ha poi un'accezione traslata peraltro simpatica, che si potrebbe riutilizzare anche nell'italiano contemporaneo, ma che difficilmente, a meno che non si lavori sul taglio, sulla segmentazione della parola, un italiano contemporaneo ci potrebbe arrivare. Infatti però bisogna dire che un po' di scivoloni potranno esserci, ma semplicemente ho proposto queste parole perché poi sentiremo un'altra ospite che insieme a un gruppo di amici ha inventato, diciamo così, un nuovo modo di giocare con le parole. E allora, la nostra enigmistica da dove parte? Allora, innanzitutto, allora c'è anche quella ludolinguistica di cui si parlava, no? Del giochi di parole, che niente hanno a che fare con l'enigmistica, secondo Giuseppe Aldo Rossi. Sì, tra l'altro, visto che appunto dobbiamo parlare di lingua, già il significato stesso della parola enigma è un enigma, nel senso che noi sappiamo che enigmistica come enigmista sono derivati della parola enigma. Troviamo enigma attestato già in Dante, troviamo almeno tre significati diversi. Il primo è quello di breve componimento, in cui ambiguamente viene proposto un indovinello, ed è proprio il significato dantesco. Il secondo è un discorso, il secondo significato è di discorso o frase di difficile comprensione. Il terzo è di persona o cosa misteriosa. In tutti e tre i casi sappiamo che alla base c'è una parola latina che a sua volta ha a che fare con una parola greca, enigma, che viene da un verbo einistestai, però alla fine non sappiamo esattamente che cosa sia questo einos che c'è alla base, quindi è un enigma nell'enigma, o l'enigma, se volete, è l'enigma. Certo, quindi già la parola così ci lascia perplessi, ecco, sì. Quindi dobbiamo andare oltre per forza, siamo obbligati. Esatto. Dobbiamo andare oltre, ma nel senso della lingua, che si voglia distinguere un certo tipo di manipolazione, quella che chiamiamo più propriamente enigmistica, da un altro tipo di manipolazione, che è quella dei giochi di parole, è del tutto irrilevante, perché i meccanismi che agiscono poi sono sostanzialmente gli stessi. Si tratta appunto di elaborazioni più o meno sofisticate di materiale linguistico che in genere il parlante deve poter conoscere prima, al fine proprio di poterci operare sopra, perché altrimenti l'enigma non viene risolto, rimane muto. Quindi presuppone una conoscenza della lingua, ovviamente. Sì, e sì. È anche una conoscenza profonda della lingua, almeno. Dipende, nel senso che l'enigmistica, o chiamiamoli giochi di parole, così almeno non ci poniamo il problema. Esatto, perché c'è la ludolinguistica, no? E l'enigmistica a questo punto, però ecco, chiamiamoli così, va bene, sennò diventa veramente poi tutto molto difficile. Io ho dato una spulciata a diversi dizionari dell'italiano, no? Anche per cercare di cogliere poi la profondità di questa differenza, però si tratta più di una differenza in ambito specialistico che non poi dal punto di vista effettivo dei significati della parola, perché in fin dei conti ludolinguistica è una linguistica che ha a che fare con il gioco, ma è un gioco appunto di lingua, per cui preferisco almeno in questo contesto parlare genericamente di nomi di parole, così da abbracciare fenomeni che tra loro sono molto diversi e che vanno da un grado più facile di elaborazione, sì, a un grado estremamente sofisticato, ma che appunto hanno tutti come link il fatto fatto di ricorrere a una manipolazione, ho usato questo termine già diverse volte perché è quello che secondo me rende meglio l'idea del gioco linguistico, quindi una manipolazione o dell'espressione, della parola o del suo contenuto, perché poi tutti i giochi si fondano o sulla manipolazione di un elemento che caratterizza la parola, quindi la successione dei suoni, o il suo significato, o entrambi, quindi si parte da uno per arrivare all'altro o viceversa. Ecco, quanto è importante secondo te la conoscenza, non la conoscenza dell'enigmistica nel senso di conoscere cosa sia, no, ma la volontà così di affrontare gli enigmi per migliorare la propria lingua? Beh, diciamo che l'enigmistica è utile a vari livelli. Nel caso di un bambino che sta acquisendo la propria lingua madre, l'enigmistica può essere uno strumento per arricchire da subito il vocabolario di un bambino. La stessa cosa può valere per uno straniero, per un apprendente straniero, però con una differenza. Mentre per un parlante madrelingua, l'utilità dell'enigmistica consiste proprio in quella riflessione che permette di arrivare alla soluzione. Nel caso di uno straniero, la competenza linguistica si arricchisce qualora lo straniero sia dato insieme l'enigma e la soluzione. Il suo arricchimento nascerà dal capire qual è stato il passaggio, qual è stato il processo mentale che ha permesso di arrivare a quella soluzione. Questo perché il punto di partenza è nettamente diverso, appunto non trattandosi per lo straniero della sua lingua materna. Ecco, voi come ricercatori proprio nella glottologia e nella linguistica, quanto usate l'enigmistica o i giochi di parole comunque sia per studiare anche la lingua? Per quella che è la mia esperienza, io mi servo dei giochi linguistici nei corsi base, perché piuttosto che iniziare subito a parlare utilizzando la terminologia specifica, quello che noi chiamiamo il metalinguaggio, è molto più facile, soprattutto se si lavora sulla propria lingua, utilizzare i giochi di quindi parole. Quindi fare degli esempi, ovviamente. Sì. A proposito di esempi, gli ascoltatori hanno capito perfettamente il gioco della mia domanda, cioè io in questo caso avevo dato un verbo che era ballinare e chiedevo una possibile definizione. Il gioco era proprio quello di non fare i più bravi per andando a guardare la soluzione da qualche parte, ma era inventarsi una definizione, perché quello che fa ridere poi, e te ne leggo qualcuna per capire come la lingua veramente è straordinaria sempre, no? Per esempio Gisella, ma anche altri hanno scritto, secondo me ballinare significa dire tante balle fino a che uno rimane abballinato. Il ragionamento è corretto e soprattutto è corretta l'individuazione della forma balla che c'è sotto, perché è chiaro che il parlante italiano taglia in corrispondenza di elementi che già conosce e che riconosce nella parola data, quindi l'ascoltatrice ha riconosciuto la parola balla e attraverso quella ha ricostruito la semantica e il significato complessivo della parola, e non ha tutti i torti, anche se poi ha deviato nell'elaborazione della definizione complessiva. È vero, è bellissimo anche questo, cioè capire come ci si arrivi, no? Ci si può arrivare, come dicevi tu. Ne leggo uno molto curioso, dice: sparare sistematicamente a tutti gli appassionati di Dancing Queen. Ecco, questo va bene. Allora, poi sono arrivate anche delle con risposte corrette, non le leggo subito. Raccogliere il fieno in balle, ecco, questo forse era la definizione più facile, no? Certo, anche in questo caso identifichiamo un balla che però viene utilizzato in un contesto di tipo diverso. Quindi per arrivare al significato vero e proprio dobbiamo ragionare sì su balla, ma su balla inteso in senso diverso come cumulo di panni, fagotto, e ora non dico altro perché altrimenti poi do la soluzione. No, la diamo pure la soluzione. Abballinare significa alzare, ripiegare i materassi per dare aria al letto. Ecco, questo è il toscanismo. Questo è un toscanismo, però. Insomma, vedi, però abbiamo imparato grazie all'enigmistica una nuova parola, quindi ci può far soltanto bene. No, Francesca? Ma sicuramente, ma l'apprendimento che c'è dietro i giochi di parole in realtà va molto più là di quanto possiamo pensare, perché se prendiamo una catena di parole molto facili, sto per pronunciare uno scioglilingua, no? Un giorno. Aspetta, lo facciamo. No, c'è il GR. Okay. E il tuo scioglilingua con la spiegazione arriverà sicuramente subito e dopo. Il numero verde ve lo ricordo per prenotarvi, perché alle 11:30 c'è il mister dei 24 minuti, 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. Le 11:30. 17 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Allora, un po' di comunicazioni. Il numero verde, perché alle 11.30 c'è il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, e il numero è questo 800 24 0024. Poi devo rispondere a un messaggio, nel senso che qualcuno scrive: aveva detto, cioè io, che avrebbe sempre distinto enigmistica da ludolinguistica, ma poi con Bartezzaghi e l'attuale ospite, che è Francesca Dragotto, che risaluto, ciao Francesca, non ha nemmeno accennato. Allora, adesso qui devo spiegare, perché è un problema che avevo, l'avevo anche detto fuori onda, voi non potete saperlo, ma i miei collaboratori qui sì. Nel senso che con Francesca l'abbiamo detto, che per così velocità univamo le due cose, no? Linguistica, ludolinguistica, l'abbiamo detto all'inizio. Con Bartezzaghi invece non ne ho accennato, semplicemente perché Stefano Bartezzaghi oggi non poteva essere disponibile in diretta, la telefonata era registrata, l'intervista, ecco perché non ne ho accennato, però mi avete beccato, ho dovuto spiegarlo, insomma, vedi? Sono molto attenti gli ascoltatori, questo ci fa solo piacere. Allora Francesca, il tuo scioglilingua. Oh, prima di proporre lo scioglilingua, sì, visto che immagino che ci siano 2 minuti, vorrei proporre un indovinello, vorrei sottoporlo agli spettatori in maniera tale che si capisca quello che intendevo prima, dicendo che a volte è l'espressione che influenza il significato e a volte invece accade il contrario nei giochi di lingua, sì, indipendentemente dal fatto che siano giochi di enigmistica o di ludolinguistica, per me la differenza non è proprio così sostanziale. Mm. Allora, l'indovinello che propongo è: che differenza c'è tra un tram nel ora di punta e un ombrello sotto la pioggia? Raccogliamo le risposte così poi capiamo in che modo il cervello manipola la lingua. Aspetta, altrimenti... aspetta, devo scrivere che differenza c'è fra, sì, hai detto un tram nell'ora di punta. Sì, e un ombrello sotto la pioggia. Vabbè, e qui punta ovviamente c'entrerà qualcosa, credo, almeno così come sotto la pioggia. Va bene, adesso poi ci penso, ma intanto ti ascolto. E questa è una cosa, rispondete. Allora, che differenza c'è fra un tram nell'ora di punta e un ombrello sotto la pioggia? 349-238-6666, messaggi. Poi, invece... E poi invece lo scioglilingua. Uno scioglilingua facilissimo, i bambini ne usano spessissimo, questo l'ho sentito quando avevo più o meno 5 anni e non è un caso che mi sia rimasto così impresso, benché estremamente elementare. Un giorno un pazzo disse alla pazza: sei pazza che butti la pizza nella pozza che puzza? Ecco. Abbiamo usato la P con tutte le vocali possibili, questo è. No, ho fatto qualcosa di il principio che hai individuato è corretto. In realtà ho preso la stessa identica parola e sono passata da un significato all'altro sostituendo di volta in volta uno degli elementi della parola. Quindi pazzo, pazza ha modificato la terminazione, passando così dal maschile al femminile. Sì. Pazza pizza, ho sostituito la prima A con una I. Certo. Ma sono arrivata in questo modo a un significato completamente diverso, differente. Sì. La stessa cosa è accaduto in pizza pozza e infine in pozza puzza. Ecco. Questo in linguistica è utilissimo per spiegare che le parole sono costituite da elementi più piccoli che chiamiamo fonemi e che i fonemi combinati tra di loro danno appunto luogo a un numero teoricamente infinito di parole. Quindi quelle che abbiamo identificato sono le cosiddette coppie minime, una catena di coppie minime. Questo è un sistema che permette al cervello di allenarsi, perché non abbiamo liste di parole che immagazziniamo in maniera sciolta l'una rispetto all'altra, ma che incameriamo sotto forma di lista, in termine tecnico diciamo sotto forma di paradigma, e l'organizzazione delle parole per paradigmi, quindi liste che hanno un criterio sotto di organizzazione, è uno dei modi essenziali di organizzazione della lingua. Straordinario, vedi, quindi assolutamente utile. Io mancava pezza lì nello scioglilingua, io ci avrei aggiunto, sì, anche pezza, visto che c'è una E dopo la P, e cambieremo ulteriormente una parola e aggiungiamo quindi elementi alla nostra lista. Prima di salutarti c'è una delle risposte arrivate per: che differenza c'è fra un tram nell'ora di punta e un ombrello sotto la pioggia? Qualcuno ha risposto, Roberta, nessuna, perché entrambi si aprono per farti entrare. Beh, è interessante, il ragionamento naturalmente non porta alla risoluzione linguistica del gioco, ma porta a una risoluzione di tipo fattuale, quindi il ragionamento c'è stato, però non ha individuato la coppia di elementi, che elementi naturalmente intendo linguistici, che accomunano queste due frasi. La soluzione, se a questo punto posso darlo, è che il tram è zeppo e che l'ombrello è zuppo. Quindi anche in questo caso abbiamo una coppia minima, due parole che si differenziano soltanto per un elemento, quindi è un po' la stessa cosa. Grazie Francesca Dragotto. Grazie e insomma voi. Buona giornata e poi ci sentiremo dopo il lieto evento, immagino. Va ciao. Bene, grazie mille. Ciao, grazie a te. Sì, per come io ho i tempi giusti mi sa che la chiamerò in sala parto. Alice Mazzetti, buona domenica, ciao. Ciao Alice. No, sorrido, sai perché? Tu devi sapere che Francesca ieri era a vedere la partita, abbonata a Roma, e con la situazione appunto tra una settimana, due, massimo tre, partorirà, per cui capisci che personaggio, ecco, vabbè, a volte certo. Il calcio è ancora più forte. Allora, succede questo, che i dilemmi, che sono le parole che avevo proposto prima da risolvere agli ascoltatori, sono un vostro divertimento. Ci vuoi raccontare un po' di questo progetto, Alice? Sì. Allora, il progetto nasce, in realtà siamo, appunto, io rappresento un gruppo di autori che nasce principalmente come gruppo di amici durante il periodo universitario, quindi a Bologna vivevamo in parte assieme, in parte appunto amici di vecchia data, eccetera, e ci divertivamo a giocare con il dizionario. In realtà, appunto, perché era una casa senza altri stimoli, non aveva né televisione né niente, quindi in realtà avere il dizionario, che era l'unico libro in comune, ci ha portato ad avvicinarci a questo. E in realtà, come abbiamo visto, poi il divertimento di giocare con le parole, il fatto di scegliere una parola e attraverso assonanze e comunque combinazioni strane, ti può portare a essere molto incentivato nell'inventare definizioni nuove. Infatti il divertimento è proprio quello, cioè inventare esatto, le definizioni. Esatto. Portando casomai in campo o le proprie competenze oppure come dire la capacità appunto di associare parole diverse. Abbiamo visto il caso di abballinare che ha portato in campo qualsiasi cosa, ed è questo stesso modo di giocare che ha affascinato noi autori, e dopo anni insomma di divertimento personale abbiamo pensato di creare un gioco su questo, e quindi di creare all'inizio proprio un gioco di società, quindi sulla base della scelta di alcuni vocaboli particolari della lingua italiana, quindi non usati comunemente, disusati, difficili in generale, che potevano essere usati ma in maniera sbagliata. E su questo appunto abbiamo creato un progetto di gioco da tavolo. Il progetto si chiama Dilemmi. Dilemmi, ed anche lo stesso titolo, un gioco di parole, certo. Esatto, perché dilemmi, la parola ascoltata, fa subito immaginare al dilemma, quindi alla scelta difficile tra due possibilità o a un problema difficile da risolvere. In realtà poi scrivendo la parola si può giocare grazie ad una grafia particolare, quindi rendendo la L maiuscola, introdurre significati diversi come dilemma, quindi dire lemmi parole, o dilemma delle parole. Certo, anche il di qui ha il doppio senso, per cui un senso nell'altro e alla fine poi si diventa matti. Senti, allora, alla fine che cosa è successo? Nel senso che Zanichelli vi ha dato supporto, se non mi sbaglio. Esatto, perché appunto nel progetto che stavamo costruendo avevamo bisogno dell'usufrutto delle voci di un dizionario di lingua italiana, perché all'interno del progetto c'era proprio quello di fare un estratto delle parole più difficili, anche più divertenti ma non conosciute, da metterlo nella scatola del gioco. E quindi, come dire, abbiamo fatto una scelta delle case editrici possibile, abbiamo puntato subito in alto in maniera forse un po' così arrogante, però il gioco è piaciuto molto e quindi abbiamo creato una collaborazione con Zanichelli. Ecco, il gioco non è ancora in vendita, non è ancora uscito, l'avete progettato e adesso siete in cerca di un editore, quindi? Sì, stiamo in cerca di un editore. In realtà poi con Zanichelli la collaborazione si è sviluppata non solo attraverso il lavoro di estrazione per creare lo strumentario per noi, per il nostro progetto, ma abbiamo anche creato un gioco, che è poi quello che tu hai proposto durante la trasmissione, che è stato inserito nel CD-ROM, in allegati dizionari Zanichelli, che usciranno poi adesso a giugno, quindi i dizionari 2012. e sono diciamo 1050 parole selezionate con tre definizioni, una diciamo l'esatta e poi due inventate da noi, quindi alla nostra volta ci siamo divertiti a cercarle. Tra l'altro io appunto agli ascoltatori non ho detto le definizioni per quel motivo, perché il divertimento era proprio quello di poterle farle leggere, cioè inventare da loro. Grazie ancora Alice, io ti lascio con un altro dilemma vostro che è saltafosso, quindi dovete darmi la definizione di saltafosso. 349-238-6666 e vediamo un po' gli ascoltatori che cosa scriveranno. Grazie ancora e complimenti per il vostro progetto, Alice. Grazie a te. Buona giornata, ciao. E gli aggiornamenti sul traffico subito e poi ancora enigmi. Il riposo del guerriero. Intanto arrivano anche messaggi che dicono: ma gli ombrelli non si zuppano perché l'acqua scorre sopra. È vero, però la parte in alto, la superficie, sì, poi scorre, potrebbero anche, basta che non sgocciolino, però vabbè, insomma, quello era un gioco di parole. Se vi piace bene, se no cambiatelo. Qualcuno ha già proposto anche delle modifiche, le proporremo anche alla Dragotto. Orazio Granato, buona giornata, buona domenica. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, un augurio alle mamme. Come no? Oggi è la giornata delle mamme e in particolar modo alla mia, quindi un augurio speciale alla mia mamma. Ecco, vedi come si fa, hai fatto bene. Allora, l'enigmistica diventa anche particolarmente attuale, basta carta e penna, ci vorrà un iPad però. Sì, esatto, intanto faccio una piccola premessa, io ho ascoltato con intensità il tuo programma. Sì. E devo dire che rispetto a tutti gli ospiti io sono quello più ignorante in enigmistica, nel senso che non è la mia materia. E vabbè, però voglio dire, tu sarai l'editore di quello di Kenigma, ma esatto, saranno poi gli altri quelli che costruiranno. Infatti, ovviamente è un'altra cosa, è giusto, infatti, cioè, ci sta. Infatti. Quello che abbiamo fatto noi in Atono è sfruttare le nostre competenze di marketing e tecnologia per coniugare un mondo tradizionale dell'enigmistica e della ludolinguistica, come ha detto il professore, calandolo su uno strumento digitale che sempre più sta entrando nella vita di tutti i giorni e nelle case degli italiani, che è l'iPad. E quindi abbiamo cercato di coniugare con una logica di ergonomia diversa rispetto a carta e penna quello che il mondo dell'enigmistica da decenni propone sul mercato, cercando di andare a sfruttare quelle caratteristiche un po' particolari del mezzo, quindi non fare un come viene una detto, trasposizione semplice, esatto, ecco, una mera trasposizione di una rivista stampata su carta, esatto, e invece in formato elettronico, ma è proprio rivista. Anche qui c'è un gioco di parole, hai visto? Rivista, esatto. Perché... Esatto, riveduta, allora diciamo così. Abbiamo cercato di studiare per ogni gioco qual era l'ergonomia più adatta per sfruttare le caratteristiche del mezzo. E inoltre ci sono giochi di parole che indubbiamente sul mezzo cartaceo praticamente fai molta più fatica, o comunque È meno pratico, ovviamente, esatto. Invece sai, col dito sul monitor è molto più semplice. Allora, se volete, la rivista si chiama Kenigma, scritto con la K, e anche qui ovviamente c'è un gioco di parole. La prima rivista, il numero 0, chiamiamolo così, è gratuito, giusto? Esatto. E poi se volete potete acquistare i numeri successivi, è mensile, con tanto di soluzioni, ovviamente ogni mese ci sono le soluzioni del mese precedente, a 79 centesimi costa, esatto, okay, quindi un prezzo decisamente accessibile. E bravi, siete stati i primi e ovviamente insomma anche l'enigmistica ha trovato spazio in questo strumento che ormai diventerà sempre più comune, il tablet in generale ovviamente. Grazie Orazio Granato. Grazie a te Stefano, e ricordo anche che proprio per sfruttare l'elemento di innovazione, proprio giocando, facendo un gioco di parole, anche in occasione della festa della mamma abbiamo lanciato Che Bouquet, che è un'applicazione per regalare dei fiori alla mamma, ah, ecco, in formato digitale. Scritto ovviamente sempre con la K. Grazie ancora. Ciao Orazio, buona domenica. Io vi ricordo il sito, c'è un sito che è kenigma.co se volete avere qualche informazione in più. Torniamo invece al dilemma prima, ed era saltafosso la parola, no? Allora il gioco, ma avete capito, è quello di dare delle definizioni curiose, oltre quella magari anche giusta, perché esiste una definizione giusta di saltafosso. Allora qualcuno dice saltafosso è il classico politico che salta da un partito all'altro, oppure, e questo l'hanno scritto in tanti, oppure una persona inaffidabile e incapace, però è convinto del contrario, oppure una persona male in arnese, o ancora il saltafosso è un tipo di pantalone corto per saltare il fosso e non bagnarsi. Per qualcun altro invece è un ponte, per qualcun altro addirittura è la classe politica in toto. Nessuno ha ancora, molti dicono anche ponte, ma non è quella la definizione. Vediamo un po' se per caso il nostro gastronauta la conosce. Il gastronauta. Ciao Davide, buona giornata. Buona giornata. Io non voglio da te la risposta giusta, è semplicemente, secondo te saltafosso cosa può significare? Così inventati una definizione. Anche per te un volta gabbana, perché molti infatti scrivono, ma non è quella la risposta giusta, poi la darò, ma non è quella. Oggi è la festa. Senti, dimmi. Volevo dirti una cosa, prima di tutto voglio salutare il popolo dei milanisti. Sì. Quindi un grande saluto a tutti i milanisti d'Italia. Ma tipo cosa hai cucinato? Cioè cucinerai qualcosa per festeggiare? Non lo so, rosso e nero? Cosa fai? Ho già festeggiato questa notte. Anche tu eri in giro. Il piatto del Duomo. No, questo del saltafosso. Buongiorno. Beh, saltafosso però c'ha anche questo significato. C'è anche questo significato di volta gabbana, poi magari tu potrai dare un'altra definizione, magari un saltafosso è anche uno che cambia squadra. Cambia casacca. In realtà però c'è una definizione. Chi è che sta scusami, non ce la faccio, Davide. Chi è questa che sta elettronica che sta parlando alle tue spalle? Sono in treno. Capito. Sono in treno, stavo cercando, pensa cosa sto facendo, stavo cercando di decifrare le tue parole e le sue, dividendole ovviamente, no? E non smette, sì. La cosa incredibile è che quando viene annunciato che a bordo c'è uno che pulirà i gabinetti, veramente incredibile questo, credo che sia una delle cose più incredibili che succedono in questo paese, vorrei vedere che non ci fosse, Cristo. Scusami, rido, cioè, chiedo scusa anche agli ascoltatori, ma non posso fare altrimenti, è ovvio. E, riprendendo il filo del discorso, se ce la faccio, mi abbassi un secondo, perdonami. Peter, Davide, nel senso che, esatto, aspettiamo un attimo che magari l'annuncio sparisca perché l'avevo nelle orecchie e non riuscivo più a concentrarmi. Dicevo, vediamo qualche altra risposta per saltafosso. Per qualcuno è una pianta addirittura, e poi vabbè, quella risposta vale perché ha risposto anche la Sabrina del nostro centralino. Ecco, mandato un SMS che saluto. Ciao Sabrina, grazie. E tu hai risposto correttamente. E anche altri, in effetti. Allora, è tornato. Davide, scusami, perdonami. Figurati. Allora, sei nel bagno a questo punto, però. Sei sì, andato a questo lì. Punto sono nel bagno. Tanto sì. Sai che era pulito, per cui sei entrato. Sì. Senti, saltafosso vuol dire tranello. Ecco, un inganno. Quello è saltafosso. Vabbè. Allora, è oggi la festa della mamma, e quindi ci sono, per esempio, delle, secondo te, ecco, delle pietanze da dedicare a questa festa? O dobbiamo aspettare che la mamma ce le prepari? Ecco, sì. No, io credo che il modo migliore sarebbe, ma per chi non è con la mamma oggi, ricordare un piatto della mamma, cioè ricordare in qualcosa che così nella memoria ricorda la mamma. Io credo che i piatti della mamma siano i più semplici. Io tra l'altro ho una mamma che sicuramente non è stata una grande cuoca, però me lo ricorda molto bene, quindi un giorno che nevicava al mio paesello. Sì. E quindi io credo che ci sia sempre questo fatto di, come posso dire, di ricordare un piatto della mamma. La mamma è memoria, e io credo che siano i piatti più semplici, magari una colazione anche al mattino, non so, pane, burro e marmellata potrebbe essere, oppure una merenda. Io credo che non si possa identificare un piatto con una mamma, una festa. Cioè un piatto nazionale, ecco. Io credo che questo non possa essere fatto, perché poi in ogni regione ogni mamma ha un suo piatto. Questo sicuramente. E se tu dovessi portare una bottiglia di vino invece, dovendola scegliere? Ma guarda, c'è un vino che si chiama Cuore. Sì. E magari porterai quello. Per il nome soprattutto. Che cos'è? Che vino è? Te lo ricordi? È un vino rosso. È un vino rosso. È un vino rosso dell'Oltrepò Pavese. Ecco, però non è la definizione del vitigno, è la definizione che viene data in etichetta, quindi per questo motivo, insomma, non per altro. Quindi non ha che delle peculiarità, però credo che il nome sia molto, molto importante. Certo che ci sono anche delle mamme che sanno bere molto bene e quindi bisognerebbe portargli un vino particolare, però non credo che in questo caso bisogna scegliere il migliore, il più buono, bisogna scegliere un qualcosa che abbia un vero e proprio significato. Ci sono ancora tante mamme che stanno nelle cucine dei ristoranti? Sono sempre meno, però ci sono ancora delle mamme gloriose, perché non dimentichiamo che nel mondo la cucina italiana viene considerata la cucina delle nonne e delle mamme, questa è una definizione che viene data molto, ma molto spesso, e quindi credo che debba essere reso onore questo a tutte le mamme d'Italia. Non dimentichiamo che noi in Italia abbiamo delle cuoche stellate, 3 stelle, che per tanto tempo sono state le uniche al mondo. E quindi sicuramente queste mamme, che sono mamme, impersonano un po' diciamo il significato della cucina italiana. Mentre fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, se ben ricordo, i 3 stelle non ce n'erano in giro per il mondo. Ora c'è una francese, c'è una spagnola, ma prima erano le uniche, quindi erano un po' il vessillo delle mamme italiane. Ecco, secondo te stiamo un po' perdendo questa cosa, andrebbe un po' recuperata quindi? Ma recuperata, sai, ci sono delle trasformazioni, il lavoro, ci sono delle trasformazioni sociali molto importanti, cioè le donne, diciamo che 50 anni fa forse poche lavoravano fuori di casa, oggi c'è un numero veramente molto imponente, di conseguenza è anche giusto che avvenga in questa maniera. Credo si cucini sempre meno in Italia, al di là delle donne in cucina, sia un fatto appunto di cambiamento sociale molto, ma molto importante, che da noi forse è arrivato rispetto a molti altri paesi industrializzati nel mondo, forse per ultimo, però sta avvenendo in maniera anche molto, ma molto veloce. Certo, devo dire che però io quando vedo, insomma, queste signore ormai di una certa età ancora preparare la pasta fatta in casa nei ristoranti con il ripieno, cioè, mi mette un'emozione straordinaria e mi fa venire veramente voglia di assaggiare e di sedermi a tavola, sinceramente. Ma sai, su questo non ci sono dubbi, il problema è che giustamente, cioè, le donne hanno meno tempo di un tempo di, quello, certo, di 20-30 sì, bisogna ormai bisogna sceglierla come professione, ecco, magari per qualcuno una invece è arrivata, perché magari il figlio ha deciso di aprire un locale, un ristorante, quindi la mamma ha cominciato a dare una mano mettendosi in cucina perché quello sapeva fare, e invece oggi una deve scegliere, per esempio, di dedicarsi a quel mestiere. Insomma. C'è da dire però un fatto che sta avvenendo, che sempre più ci sono uomini appassionati di cucina che cucinano. Questo sì, certo. Quindi diciamo c'è un'inversione di tendenza da questo punto di vista. Forse lo fanno più per hobby, per passione, che per continuità, diciamo, quotidiana, questo è vero. Però c'è anche questo tipo di cambiamento molto, ma molto veloce. Se tu vai a vedere i corsi di cucina, i corsi collegati, cioè gli uomini sono sempre più presenti, un tempo non lo erano minimamente. Devo dire comunque che io credo che il futuro anche della ristorazione italiana sia molto vicino alla cucina di casa, ovviamente trasformata in ristorazione, cioè che i piatti della tradizione che si fanno a casa siano sempre più anche riportati nella ristorazione, ovviamente con dei cambiamenti che sono cambiamenti di prodotto, sono cambiamenti di momenti. Un conto è fare da mangiare a casa un giorno, non a tanto, ma quanto farlo 2 volte al giorno al ristorante. Certo, ovviamente sì. Ci sono questi cambiamenti, però vedo che sempre di più la gente torna alla semplicità sia nella realizzazione e che anche nei sapori e nei gusti. Ecco, insomma, per noi l'immaginario magari appunto è quello della mamma che prepara la pasta fatta in casa, per chi nasce oggi invece l'immaginario sarà slegato da questo, immagino, quindi anche per quello che vive nella propria abitazione, per cui in effetti cambierà anche in questo senso chi troveremo in cucina, ormai ovviamente un misto. Grazie Davide, a questo punto buon viaggio. Grazie, esco dal bagno. Ecco, esco sì, dal bagno. Esatto, va bene. Tanto l'hai trovato pulito, ce l'hanno fatto anche sapere. Buona domenica, buon viaggio. Tra pochissimo giocheremo. 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. Sto leggendo i messaggi che stanno arrivando e tutta una disquisizione è nata sul fatto se l'ombrello si inzuppa o meno. Io penso che volesse essere semplicemente un gioco di parole, adesso non deve essere così una questione scientifica. Comunque sia, parlavo dell'indovinello che era stato lanciato prima da Francesca Dragotto e invece adesso noi facciamo, anzi premiamo il pulsante start del cronometro. Un mistero in 24 minuti. È il tempo che avete a disposizione per risolvere il mistero. Per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. La soluzione può essere un personaggio, qualcosa di conosciuto o una notizia della settimana. Per arrivare alla soluzione dovete ovviamente ascoltare gli indizi musicali e l'indizio può essere nascosto nel titolo piuttosto che nel nome di chi canta quella canzone o in generale anche nell'argomento della canzone. Comunque sia, il primo indizio è questo. Alberto da Cuneo, buona giornata. Ciao Stefano. Ciao Alberto, senti, ho una domanda per te. Oggi sai che no, facciamo gli indovinelli. Sì. Allora, secondo te, se Victoria non fosse stata nelle Spice Girls, avrebbe sposato comunque Beckham? Bella domanda, penso di no. Ecco, pensi di no. Stanno, l'amore è cieco, avrebbe dovuto nascere lo stesso, però magari non si sarebbero mai incontrati. Questa è la verità. Giusto. Allora, Alberto, questo è il nostro primo indizio: stop delle Spice Girls. Sì. E abbiamo 1000 euro qua sul tavolino che ti aspettano. Cosa vuoi fare? Altro indizio? Scendiamo a 500? No. Oggi proviamo così com'è. Ma a me è venuto in mente stamattina, mentre guidavo da Malpensa verso casa, mi è venuto in mente con questa notizia del 4 maggio, mi pare, l'accordo tra Fatah e Hamas che ha stoppato le rivalità per una riconciliazione. Sì. Quindi è venuto in mente una cosa del genere, perché le parole della canzone non mi dicono molto. No, beh, però insomma il titolo è Stop, le Spice Girls, però le Spice Girls, ragazze tutto pepe, può essere anche lì l'indizio. Comunque sia, la tua è una bella risposta. Grazie mille. È anche un momento importante, quindi speriamo che tenga questo accordo. Grazie Alberto. Anche a te buona giornata. Anche a te buona giornata, sicuramente. Marcello da Forlì. Buongiorno. Ciao Marcello, siamo ancora a 1000 euro. Io ti darei un altro indizio. Ecco, allora scendiamo. Non siamo più a 1000 euro, siamo a 500 euro e la canzone arriva da un cantante che una volta si chiamava Cat Stevens. Listen to the wind come howl, telling me I have to hurry. I listen to the robin's song, say not to worry. So on and on I go, sick and stick the time out. There's so much left to know, what I'm on the road to find out. Eccolo qui Cat Stevens, un cantautore straordinario che a un certo punto è diventato musulmano e ha cambiato anche nome. Adesso si chiama Yusuf Islam o Islam, come ognuno vuole dire. Questo però era, questa è una traccia vecchia degli anni 70 più o meno, e ancora si chiamava Cat Stevens. E il titolo della canzone è On the Road to Find Out, che significa sulla strada per la conoscenza, ecco. Sulla strada della conoscenza. Sulla strada della conoscenza. Sì, Marcello. Io ti vuoi, se vuoi ti lascio anche pensare, perché possiamo, posso dare anche gli aggiornamenti sul traffico e poi ti chiedo la risposta dopo. Ah, d'accordo, grazie. Va bene, allora facciamo così, aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Marcello, hai pensato? Sì, ho pensato, non mi è venuto in mente molto, però qualcosa da dircelo. E che cosa? Elisabetta Canalis che si è, ha fatto delle foto per la Beta, per in difesa del, degli animali. Grazie Marcello, come sai la risposta giusta, magari la tua, ma lo saprai soltanto allo scoccare del 24esimo minuto. Buona domenica, grazie. Ciao. Laura da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io vorrei ascoltare un altro indizio, se possibile. Come no, scendiamo a 300 euro. Grazie. Però. Quanti anni hai, Laura? Sì. 34. 34, beh, però questa canzone la conosci sicuramente. Quanta violenza sotto questo cielo. Un altro figlio nasce e non lo vuoi. Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma che uomo sei? Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Laura, questo è un grande successo di Renato Zero, credo che il titolo non te lo debba neanche dire. Sì, cioè, solo che non ho proprio idea, provo a sparare la mancata partenza dello shuttle. Grazie Laura. Grazie. Ciao, buona giornata. Chi lo sa? Beh, insomma, un po' ci sta, no? Anna Rita da Roma, buona giornata, buona domenica. Grazie. Anna Rita, allora, tre indizi li abbiamo scoperti, siamo a 300 euro. Io credo che le cose siano piuttosto chiare, no? Adesso? Sì? Per me abbastanza. Per te abbastanza. Quindi? Vorrei dare, diciamo, la soluzione senza ascoltare l'indizio. Va bene, allora non scendiamo a 200, rimaniamo a 300 euro. Anna Rita, la tua risposta. Pensato alla visita di Barack Obama a Ground Zero in occasione della, diciamo, non hanno atteso il decennale dell'11 settembre, sono andati prima a commemorare per la morte di Bin Laden. Grazie Anna Rita, buona domenica, ciao. Sai che non posso dire niente. Marco della provincia di Cuneo, buona domenica. Sì, buona domenica Stefano. Ciao, buona Marco. Domenica. Allora, cosa vogliamo fare? Io ascolterei un altro indizio. Ma andiamo a 200 euro, va? Con questa canzone di Raff. Canzone, quarto indizio, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Era Raffa a cantarla. Marco, dammi la risposta giusta. Io ci provo. Aspetta che prepariamo già, guarda, il suono della vittoria, perché io sento, non lo so, vediamo, sentiamo, vai. No, a me è venuta in mente la notizia del satellite che è stato lanciato nello spazio 25-30 anni fa, che è uscito dal nostro sistema solare in questi giorni. Marco, non è quella la risposta. Che rabbia. Ciao Marco. Ciao, grazie. Buona domenica, ciao. Ce la facciamo ancora con Moreno? Sì, Moreno, sì, pronto. Ciao. Ce l'hai tu la risposta? Sono Moreno, Bologna. Sì, lo so. Moreno, ce l'hai la risposta, vero? Ci sto pensando, seguendo un po' l'indicazione. L'immenso vuoto che c'è, l'ultima. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Prima, vuoi sentire i quattro indizi? Quali erano? Sì. Ok, grazie. Sentiamo i quattro indizi quali erano. senza stelle il cielo. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Avevamo Stop le Spice Girls, poi On the Road to Find Out Cat Stevens, ovvero nella, sulla strada della ricerca il cielo, e Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Moreno, non mi viene proprio niente, io passo proprio perché hanno proprio la mente, non riesco a... Che rabbia! Lo so, grazie, non ce la faccio. Grazie, non mi Moreno! Non niente, niente, ci stavo già pensando da un pezzo, che ho fatto l'indicazione e c'erano già i suggerimenti. Moreno, il SETI, che è l'istituto che ricerca presenze extraterrestri da tantissimi anni, non ha più soldi e non li cercherà più. Questa era la notizia. Il SETI non ha più i fondi per cercare presenze extraterrestri e quindi ha fermato la ricerca. Non sapremo mai se siamo soli nell'universo oppure se ci sono anche delle altre presenze. Mi dispiace. Grazie Marco, che è andato, e grazie a voi ovviamente. È finito anche il riposo del guerriero. Insomma, mi dispiace un po'. Questa cosa era bella, no? Il fatto che cercassero presenze extraterrestri. A me è sempre molto affascinato. E purtroppo i soldi non ce ne sono più perché costa molto. Pensate che fino ad oggi avevano soltanto esaminato solo un miliardesimo dello spazio e delle frequenze possibili. Quindi, insomma, gli extraterrestri ci saranno da qualche parte, ma per ora nessuna comunicazione. Ci sentiamo domenica prossima, puntuale alle 10 con il riposo del guerriero. E grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, a Claudia Carusi in assistenza e Peter Bescapè in regia. E a voi, ovviamente, ancora auguri a tutte le mamme. A domenica prossima, buona domenica da Stefano Gallarini. Il riposo del guerriero. Ah!